Siamo abituati a pensare al confine come una linea, un muro, un fiume, una sbarra doganale, ma nel 2026 il confine non è più un luogo semplicemente geografico, è un processo. È qualcosa che ti porti addosso, che ti insegue tra i palazzi di una smart city. In questa puntata conclusiva del Codice Nero entriamo nel ventre delle nostre città, partendo proprio da quei confini diventati laboratori di sorveglianza. Sono Fabrizio C, benvenuti e benvenute a Piede Sinistro, cominciare dal lato giusto. Avete presente quelle telecamere che ormai consideriamo parte dell'arredo urbano? Non stanno solo guardando, stanno calcolando. La Smart City che ci hanno venduto come il paradiso dell'efficienza, dove i semafori si regolano da soli e i parcheggi si trovano grazie ad un'applicazione, è in realtà l'infrastruttura di un controllo totale. Come analizza Dario Guarascio, lo spazio pubblico è diventato un terreno di estrazione. Ogni nostro movimento in piazza, ogni sosta davanti a una vetrina, ogni traiettoria verso il lavoro è materia prima. Lo Stato ha trasformato la città in una miniera di dati biometrici e lo ha fatto appaltando la gestione di questi dati a multinazionali che hanno un unico obiettivo: rendere il controllo invisibile e inoppugnabile. Mentre cammini per il centro, non vedi guardie armate ad ogni angolo, ma sei immerso in quella che Fabio Chiusi definisce la fortezza biometrica. Qui il confine si sposta dal limite della nazione al limite del tuo corpo. Chiusi ci racconta di come i varchi doganali siano usciti dagli aeroporti per entrare nelle nostre piazze. Pensate ai sistemi di riconoscimento facciale testati nelle stazioni e negli stadi. Qui emerge il capitalismo politico. Tutto questo ha portato a una ideologia e a una visione schiettamente ideologica di che cosa significa sicurezza. Cioè, in questo caso, sicurezza significa certezza assoluta di non avere mai nessun tipo di minaccia, né ai confini né all'interno del proprio paese, no? E lo stiamo vedendo con la militarizzazione anche delle nostre città, con la militarizzazione di tutto lo spazio pubblico, no? E questo si vede nelle città grandi e piccole, si vede in Europa come negli Stati Uniti ancora molto peggio. E naturalmente si vede in tutti i regimi autoritari, quindi in Russia, in Cina, in India, no? Democrazie semifallite, diciamo, come queste. E quindi fondamentalmente si può dire che c'è questo tentativo di trasformare l'intelligenza artificiale in quella magica soluzione che dovrebbe garantire questa sicurezza assoluta. Non si tratta più di prevenire un crimine, ma identificare un'anomalia. Se il tuo volto non combacia con i parametri del database, se il tuo comportamento viene letto come sospetto da un software proprietario di cui nessuno conosce il codice, tu diventi un alert. È la fine dello spazio pubblico come luogo di anonimato e libertà. In queste città a confine, il diritto alla privacy non è più un diritto umano, ma la concessione dell'algoritmo. È il paradosso, come sottolinea Chiusi, che mentre i governi si riempiono la bocca di sicurezza, in realtà stanno creando un sistema di apartheid digitale. Chi ha documenti a regola e il profilo giusto scivola fluidamente tra i sensori. Chi è considerato fuori posto, il migrante, il povero, il dissenziente, sbatte contro i muri digitali che non può né vedere né contestare. Ma chi gestisce questo muro invisibile? Chi decide quando un sensore deve far scattare un fermo? Qui entriamo nel territorio più scuro, quello tracciato da Alessandro Arduino. Arduino ci avverte come stiamo vivendo la più grande privatizzazione della forza della storia moderna. Lo Stato non ha più la sovranità tecnologica per gestire questi sistemi, ha bisogno di comprare il controllo. Ed è qui che nascono i mercenari dell'algoritmo. Le aziende che forniscono software di sorveglianza predittiva alle nostre città sono le stesse che vendono droni autonomi e sistemi di guerra elettronica nei teatri di conflitto. Il concetto di dual use è il concetto di dual use portato all'estremo. La tecnologia che individua un volto in una piazza di Torino o di Milano è la stessa che traccia un bersaglio in una zona di guerra. Arduino ci spiega che la guerra si è urbanizzata e la città si è militarizzata. Se un'azienda privata gestisce i dati della tua polizia locale, quella polizia smette di rispondere ai cittadini e inizia a dipendere dal fornitore di software. Siamo passati dal monopolio statale della forza a un mercato della sorveglianza dove il caos è democratizzato e il controllo è un servizio in abbonamento. È un caos asimmetrico dove chi possiede il codice possiede la città. Arriviamo al punto di non ritorno, il lock-in. Una volta che una pubblica amministrazione decide di blindare una frontiera, una piazza con sistemi di Palantir o di Amazon, come abbiamo già raccontato nella scorsa puntata, tornare indietro è tecnicamente ed economicamente impossibile. Lo Stato è diventato un inquilino. ha venduto le chiavi di casa e ora paga l'affitto per poter entrare nelle sue stesse banche dati. È un atto di vassallaggio tecnologico che rende i nostri confini, sia quelli geografici che quelli urbani, territori fuori dal controllo democratico. Se l'algoritmo sbaglia, e l'algoritmo sbaglia spesso, specialmente con le minoranze, non c'è un responsabile, una politica a cui chiedere conto. C'è solo un ticket da aprire con un'assistenza tecnica remota. Come ricorda Kenobit, questi sono giocattolini per il controllo delle mani di chi vuole semplificare la complessità umana per trasformarla in profitto. Ma la città non è un foglio di calcolo, il confine non dovrebbe essere una sentenza emessa da un server. Chi è degno o chi non è degno di attraversarlo non può essere appannaggio di un'applicazione o di qualsiasi banca dati o algoritmo. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Abbiamo visto come il codice nero non sia un'astrazione, ma una griglia che si sta calando sopra le nostre vite, dalle frontiere del Mediterraneo fino ai marciapiedi sotto casa nostra. Ma la città, come i confini, hanno un punto debole, hanno bisogno della nostra passività. Hanno bisogno che noi accettiamo l'efficienza come sostituto della libertà. Analizzare l'imperialismo digitale di Guarascio, la sorveglianza di chiusi e la guerra privatizzata di Arduino serve solo a una cosa: a ricordarci che il codice può essere riscritto e, se necessario, interrotto. Non siamo dati, non siamo pattern, siamo corpi che abitano lo spazio e lo spazio deve tornare ad essere pubblico, imprevedibile ed umano. Quindi il primo modo, diciamo, per disarticolare questo meccanismo è cominciare a mettere in questione le visioni che queste aziende propongono, le soluzioni che cercano di realizzare queste visioni, naturalmente che sono esattamente quello che a loro interessa, e quindi incominciare a ragionare noi invece da un punto di vista politico. Quindi questo libro parla di tecnologie, diciamo, ma ne parla come risultato, come epifenomeno di una visione politica, è una visione, diciamo, securitaria, no? Reazionaria, e sicuramente che, come si vede, prova fastidio verso, diciamo, la tradizione del diritto internazionale dei diritti umani. Non stupisce, vedendo quello che sta succedendo a livello geopolitico in questi mesi, naturalmente, ma nelle migrazioni si vede da molto tempo. Qui si ferma questa prima settimana di piede sinistro, cominciare dal lato giusto. Abbiamo provato a guardare nell'abisso della tecnologia, nell'abisso dell'intelligenza artificiale e di tutto ciò che si sta muovendo intorno. L'abbiamo fatto grazie ai miei ospiti Irene Doda, Maurizio Graffio Mazzoneschi di Circex, Kenobit, Luca Ciarrocca, Fabio Chiusi e Dario Guarascio. A loro che mi hanno partecipato a vario titolo, in vario modo a queste puntate va il mio grazie, a voi che mi avete ascoltato altrettanto grazie. Ci sentiamo lunedì prossimo, ma chiudiamo con Kenobit, perché tutto questo che vi abbiamo raccontato ha anche un'alternativa. Grazie ancora, a lunedì prossimo con piede sinistro, cominciare dal lato giusto. Per quanto la situazione delle piattaforme commerciali sia tremenda e ci sottoponga quotidianamente a una cosa che definisco senza paura oppressione, c'è un mondo di alternative meravigliose basate su software libero, quindi su software trasparente, su software non di proprietà privata, ma software sviluppato dal basso, posseduto dal basso, inalienabile. La proprietà collettiva del software libero è inalienabile e che, grazie al lavoro di tantissime persone negli ultimi 20 anni, già adesso esiste il Fediverso. Cos'è il Fediverso? È una dimensione online funzionalmente identica all'internet commerciale che conosciamo. Puoi condividere video, immagini, messaggi, vocali, status, tutte le cose che siamo abituati a considerare parte di internet ci sono nel Fediverso, ma su una rete organizzata dal basso, finanziata dal basso, decentralizzata, quindi senza un controllo centrale, ma appunto organizzata come una federazione. Fediverso è una parola macedonia di federazione e universo. Quindi l'alternativa c'è, già funziona,